Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, tanto tuonò che piove, forse è un po' eccessivo, però come vi ha appena fatto ascoltare il nostro GR, la risposta del Premier Enrico Letta all'intervista di Oli Rena oggi sul quotidiano La Repubblica è stata più che una risposta piccata, diciamo una risposta molto dura. Perché ne parleremo nella seconda ora del programma, visto che Rehn aveva detto l'Italia non sta rispettando l'obiettivo del debito, ha un ritmo di riduzione troppo basso, Italia e Francia sono chiaramente indietro sulla competitività, fermo restando che il buon Oli Rehn, che qua insomma le mezze vergini non esistono, si sta candidando, si sta preparando alle elezioni europee anche lui, per cui saranno anche i tatticismi per ottenere consenso elettorale. Ma la risposta che è arrivata prima dal presidente Napolitano, che ha detto siamo orgogliosi degli sforzi fatti per il risanamento, fatti dall'Italia per il risanamento. Poi ancora più piccata la risposta di Enrico Letta, che avete appena sentito, per cui insomma non accetta lezioni dall'Europa per quello che riguarda il nostro presidente del Consiglio. Di questo parleremo perché nel momento in cui rispondono sia il Presidente della Repubblica che il Presidente del Consiglio, e vi spiegherò anche nei modi, nei termini, lo scontro, forse non si può definire ancora scontro vero e proprio, però insomma si alza l'asticella. Personalmente riteniamo da sempre che l'atteggiamento dell'Italia nei confronti dell'Europa, che pure chiedeva cose giuste, sia stato troppo ossequioso. È vero che eravamo il malato d'Europa, è vero che eravamo con uno spread a 550 punti, tutto vero, però soprattutto l'ultima parte del governo Monti e soprattutto l'ultima parte e anche diciamo negli ultimi mesi di governo Letta c'era stato un atteggiamento un po' troppo ossequioso, se ci passate il termine. E Letta infatti risponde: attenzione, Rehn non può esprimere scetticismo, abbiamo già in agenda le privatizzazioni e la spending review, e poi l'Italia è seria, nel 2014 inizierà il calo del debito, e poi qualche stoccata, attenzione che dice Letta, io sono un europeista convinto, ma l'Europa si sta avvitando, il 2014 sarà l'anno dell'Europa, o si farà un passo in avanti oppure si avvita, questo perché ci sono anche le elezioni europee oltre che il semestre di presidenza italiano da giugno e in poi. Ripeto, ben venga un'Italia che alza la voce, ci piacerebbe vedere anche una Francia che la smette con i tatticismi e smette di pensare di potersi inserire nella scia tedesca, tanto non è la Germania, e forse Hollande dimostrasse di avere diciamo un coraggio più forte e anche un'impostazione più forte e ponesse un argine a quello che è uno strapotere politico oltre che economico della Germania nella gestione della casa europea, casa che vacilla. Ancora per quello che riguarda invece la giornata, c'è una buona notizia, ne parleremo subito, riguarda l'Italia promossa, possiamo dirlo, nel rapporto OCSE-PISA. PISA è un nome chiaramente italiano, ma è l'acronimo per Program for International Student Assessments, e quindi sono un insieme di parametri che mettono e raffrontano la preparazione degli studenti dei paesi OCSE. Perché dico che è una buona notizia? Perché gli studenti italiani, soprattutto del nord e del nord-est, qui c'è un problema e qui non contano i soldi pubblici, abbiate pazienza, non contano le distanze geografiche, conta anche la mentalità degli insegnanti e dei genitori. C'è un problema sugli studenti del mezzogiorno invece. L'Italia risulta spaccata in due, ma ripeto, c'è stato un progresso e rispetto al rapporto di 10 anni fa la scuola italiana nel suo complesso resta in ritardo, ma è quella che sta recuperando più in fretta i tagli alle risorse. Pensate un po' che insomma in matematica il nord-est fa la parte del leone, ne parleremo tra pochissimi minuti. Ancora la borsa, meno 1,40% Milano, meno 1,60% Francoforte, meno 2,20% Parigi e meno 0,70% Londra. mentre l'America in questo momento perde lo 0,40%. Secondo l'agenzia di rating Fitch è debole la prospettiva su titoli bancari, devo dire che calano questi, ma non solo oggi. Va male tutta la galassia Fiat dopo i dati sulle immatricolazioni pubblicati ieri, meno 3,30% CNH Industrial, meno 2,45% Fiat e anche Exor perde l'1,70%. Il peggior titolo resta Buzzi Unicem, però tra quelli a maggiore capitalizzazione perde il 3,40%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi, perde il 3,14%, di nuovo debole Ferragamo, ma molto era cresciuto il mese scorso, meno 3%, Finmeccanica meno 2,80%, chiudo con Mediobanca e Luxottica che perdono il 2,40%, Mediaset che perde il 2,85% e infine ST Microelectronics e G-Tech meno 2,2%, World Duty Free meno 2, bene, seppur di poco, Terna più 0,50%, Autogrill più 0,30%, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Mi fate notare il nuovo ISE, ne parleremo perché il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al nuovo ISE. Cos'è? È il nuovo modo in cui si cercherà di capire, l'ISE già esiste, abbiamo visto nel rapporto della settimana scorsa della Guardia di Finanza dati obiettivamente anche imbarazzanti di cui vergognarsi, non solo negli sprechi e nei 3 miliardi complessivi che ci costano sprechi, consulenze, ruberie, non ci sono solo le pubbliche amministrazioni che raccontiamo ogni giorno, le regioni, le province e lo Stato centrale, ci sono anche i comportamenti, e va detto, di alcuni italiani, e abbiamo visto la studentessa che come reddito aveva diritto alla borsa di studio, le agevolazioni e poi girava in Ferrari, abbiamo visto dei casi incredibili. Allora un po' di mano sulla coscienza anche sui comportamenti nostri. Il nuovo ISE ha l'obiettivo di dare i servizi a chi ne ha veramente bisogno. Un paese che però ha un'evasione fiscale di 120 miliardi, è bene che si è fatto bene quest'indice, perché sennò rischi di premiare gli evasori totali o grandi evasori e di penalizzare le famiglie che magari hanno un reddito che, per carità, non è un reddito in cui navigare nell'oro, però in questo paese risultano quasi ricche, no? Perché se tu qui guadagni 60.000 euro di l'anno sei ampiamente sopra tantissime categorie professionali, tra cui gioiellieri, ristoratori e via così. L'acconto dell'IRES invece, è arrivata una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'acconto dell'IRES verrà prorogato al 10 dicembre per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo dell'imposta. Ancora, il Tesoro ha confermato che sarà una misura una tantum l'aumento di IRES e IRAP su banche e assicurazioni e per il periodo d'imposta che è in corso fino al 31 dicembre 2013. Le banche, le assicurazioni e tutte le attività finanziarie effettueranno il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 130%, mentre tutti gli altri soggetti nella misura del 102%. L'incremento delle aliquote vale però anche ai fini dell'IRAP. Ancora due notizie, poi arriviamo al rapporto PISA. Per quello che riguarda la Confcommercio, denuncia che l'anticipo dell'IRES e dell'IRAP per le famiglie italiane va a vanificare il taglio del cuneo fiscale, e ha ragione, nel senso che è vero che è un anticipo, che poi non lo pagherai nel 2014, ma intanto i soldi li tiri fuori. E quindi l'anticipo vale 1 miliardo e 147 milioni per le famiglie italiane che dovranno anticipare le tasse dell'anno prossimo, diciamola così, a fronte di un'iniziativa sul cuneo fiscale che vale 1 miliardo, quindi il beneficio è azzerato. Questo purtroppo, mi dispiace dirlo, ma ricordo ancora una volta il gioco delle tre carte, cui insomma ancora la Corte dei Conti, voglio dire, caro Mastrapasqua, noi non ce l'ho con lei, però lei ha 24 cariche in vari enti, consigli di amministrazione, secondo noi sono un po' tante 24 cariche, poi magari lei ce la fa. Detto questo, si concentri molto bene sui conti dell'INPS, perché la settimana scorsa ha creato, scusami, 2 settimane fa ha creato il panico dicendo che i conti dell'INPS non erano in totale tranquillità, che aveva scritto a Saccomanni, a Giovannini, ministro dell'economia e al lavoro, perché serve una riflessione sul deficit. Poi aveva fatto retromarcia e infatti detto: no, attenzione, non esiste nessun rischio per le pensioni. Possiamo farlo sentire? Dura pochi secondi. Il disavanzo del 2012 dell'INPS è ascrivibile per la sua quasi totale interezza al disavanzo dell'INPDAP, che ha due cause di fatto. Una, ovviamente diminuiscono i lavoratori pubblici e quindi conseguentemente ci sono più pensionati. La seconda è che una norma nel 2007 modificò un ripianamento del cosiddetto deficit dell'INPDAP in anticipazione. Non c'è nessun allarme pensioni, non c'è nessun rischio sulle pensioni, è un fatto prettamente contabile, perché ovviamente dal punto di vista finanziario lo Stato darà sempre i soldi. Allora, noi non ci permettiamo di criticare il presidente dell'INPS, anche perché ricoprendo 24 cariche è una persona, diciamo, molto molto eclettica, che ha molte competenze. Però faccio solo notare che oggi la Corte dei Conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per il 2012, dice: attenzione, nel contesto del marcato aumento delle prestazioni da erogare, la ripresa del flusso contributivo alimentata da gestione privata ed in particolare dal lavoro autonomo e ancora di più dal parasubordinato non riesce a ripianare lo squilibrio tra le ambedue essenziali componenti di quasi tutte le gestioni, con conseguente dilatazione dei saldi negativi e dell'indebitamento, aggravati dal fondo di nuova acquisizione dei dipendenti pubblici in progressivo e crescente dissesto, l'EMPALS. Titolo, per riassumere: è indilazionabile, non è più rinviabile una misura di risanamento dei conti dell'INPS. Master Pasqua, ci scriva, ma faccia un comunicato, ci chiami, ci rassereni, perché non è pensabile che il giudizio della Corte dei Conti cada nel vuoto. Avremo anche due buone notizie più avanti, mi riferisco all'Aquila, al nuovo stabilimento dell'Aquila aperto da Thales Alenia Aerospace, un investimento importante perché comunque sono 42 milioni di euro, è pronto ed è funzionante da oggi all'Aquila, per cui particolarmente importante che venga fatto lì. Vorrei partire con se volete sapere se la studentessa in Ferrari, ma che era esentasse, verrà denunciata per, penso di sì, per truffa, mi aspetto che sia il minimo, ma il problema non è arrivare ogni volta alla denuncia, perché la Guardia di Finanza non ci può stare dietro a tutti. Il problema è avere anche quella che una volta si chiamava educazione civica, si può usare come parola, è una bestemmia adesso. Allora, per favore, con i paesi in crisi, tutti a criticare la politica, siamo i primi, gli stipendi dei top manager della pubblica amministrazione e siamo i primi. Poi però un po' di esame di coscienza, che non è tanto il parcheggiare in doppia fila o nel posto degli handicappati, è anche rubare quello che sarebbe il posto di chi è meno abbiente, perché vuoi risparmiare 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro dopo che hai un papà magari grandemente evasore e comunque, diciamo, ci arrivi da solo a capire che sei la Ferrari, forse non hai bisogno dei sussidi per, o delle agevolazioni per l'università. Detto ciò, stavamo parlando di università e allora concentriamoci su, una volta tanto, l'Italia che viene promossa, e viene promossa dai test OCSE PISA, ripeto, Program for International Student Assessments. Promossa però a macchie di leopardo, e ce lo racconta, visto che tutto il giorno che ci lavora è esausta, la nostra Piera Ceci. Piera, buonasera. Sì, è così, in effetti, ma non so se si possa dire promossi, perché in effetti registriamo nell'analisi di quest'anno, che lo ricordiamo viene fatta su 65 paesi OCSE, siamo a metà classifica. Metà classifica vuol dire che siamo a 32esimo posto, però in effetti è costante l'andamento di risalita della China, e sicuramente questo è un dato molto positivo, peraltro in tempi in cui sulla scuola si taglia, e questa è un'altra cosa abbastanza interessante, no? Da esaminare, perché siamo l'unico paese che ha disinvestito sulla scuola, quindi diminuisce il suo investimento sulla scuola, i fondi diminuiscono in 5 anni di 3 miliardi di euro, eppure stiamo risalendo lentamente ma inesorabilmente la china OCSE. Quindi stamattina hanno spiegato durante la conferenza stampa dal MIUR, dicendo che in effetti questo dimostra che non è la quantità ma è la qualità. Vero fino, sì, a un certo, oddio, punto, perché sotto, insomma, una certa quantità esatto, non è neanche più la qualità, poi... però è vero che delle volte puoi mettere, raggiungere risultati di maggiore produttività e efficienza anche senza spendere tanti soldi. Quello che mi dispiace un po', ma intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'analista dell'OCSE Pisa, Francesco Avvisati, buonasera. Buonasera. Adesso vorrei sentire anche la sua analisi. Quello che mi dispiace un po', Piera Cecci, è che le differenze a livello di macro regioni, nemmeno regionale, sono altissime. Se ce le puoi raccontare, sì, non so, la matematica. Ecco, la matematica, quest'anno il focus è stato proprio sulla matematica. In effetti, come dicevamo, stiamo lentamente ma inesorabilmente risalendo la china, ma in realtà dovremmo parlare di due Italie, perché per quanto riguarda la matematica, se abbiamo un Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia che hanno fatto passi da gigante, in realtà sono sempre stati abbastanza forti in questa materia, al sud, pensiamo alla Sicilia e alla Calabria, sprofondano in basso, piazzandosi addirittura sotto il Kazakistan. Quindi questa sicuramente è un'altra riflessione da fare, e magari lo chiediamo anche all'analista dell'OCSE. Sì, che è in collegamento con noi da Parigi. Poi, visto che non dimentichiamo le nostre rubriche sugli sprechi, visto che la Sicilia continua ad avere un dato scarso, per essere buoni, assieme ad altre regioni, sulla matematica, vi racconterò anche invece quanto spende la regione Sicilia sui dirigenti e sui corsi di formazione. Ecco, magari se li mettesse un po' di più sulla scuola, forse. Ecco, no, perché abbiamo raccontato anche corsi di formazione per il merletto macramè. Io non lo sapevo, però insomma, corsi di tutto, per cui abbiamo praticamente dipendenti in musei che non hanno visitatori, tutto quello che volete. Comunque, dottor Avvisati, sì, siamo noi troppo ottimisti, o comunque, come diceva anche Piera Cecci, la conferma di una costante progressione nel risalire, diciamo, i livelli a cui eravamo 10 anni fa? No, è giusto, è giusto sottolineare i progressi che sono stati fatti in questi 10 anni nella scuola italiana. Gli studenti di oggi sono più preparati rispetto a 10 anni fa per usare quello che imparano a scuola nella vita di tutti i giorni. Ecco, qual è il dato che lei ha sorpreso di più, e quello che la preoccupa invece di più? La sorpresa positiva intanto è questo, appunto, miglioramento sicuramente nella performance media dell'Italia, allo stesso tempo accompagnata da divari regionali, come avete già sottolineato, che però erano sempre presenti. Non è possibile per noi fare un'analisi di se questi divari sono aumentati o no. Quello che noi vediamo è che l'insieme degli studenti italiani oggi è più preparato. Ecco, però quelli che andavano male che quelli che vanno bene. Oggi sono più numerosi quelli che vanno bene, sono meno numerosi quelli che vanno male. Però il 25% non raggiunge neanche le competenze minime, vuol dire che un ragazzo su 4 non partecipa, non è in grado di partecipare alla vita sociale con cognizione di causa, cioè non sa risolvere problemi semplici della vita pratica, non so, forse fare restano la spesa. Troppi. Sono uno su 4, a Shanghai sono il 4%. Sì, Shanghai sono il 4% e in altri paesi più simili a noi sono molto meno che da noi. Diciamo che però, l'Oriente ci sta facendo, come dire... Sì, questo non è, ahimè, sono tra i migliori polvere. Studenti in generale a livello mondiale. No, a me conforta vedere, per esempio, che l'Emilia Romagna in matematica fa meglio della Danimarca, che è da sempre un modello di welfare, di istruzione. Io vorrei restare sull'Europa, perché si inizia a confrontare la fame di uno studente indiano e cinese o brasiliano o indonesiano con la fame di uno studente europeo, vabbè, è inutile, che sono due mondi a parte. In matematica abbiamo superato anche Stati Uniti e Svezia. Bene. Quindi anche un dato positivo. Dottor Avvisati, secondo lei a questo punto dov'è che potremmo, perché è inutile sedersi sugli allori, dov'è che potremmo lavorare, visto che le risorse comunque sono diminuite e sono scarse? Le dico due, due cose forse, perché che sono legate poi al dato che il 24% non raggiungono competenze di base. Questa cosa è legata anche al fatto che una cosa su cui siamo completamente al di fuori dal dato europeo è che troppi studenti proprio non vanno a scuola, saltano lezioni, saltano giorni di scuola. Più di uno studente su due dichiara appunto che in due settimane prima dell'indagine PISA non è andato a lezione oppure ha saltato un giorno intero di scuola. Ovviamente se vogliamo cominciare a investire sulla scuola bisogna che questo sia un investimento da parte di tutta la società, non solo, anche delle famiglie, di non giustificare certi comportamenti, di mostrare un'attenzione verso la scuola che favorisce l'apprendimento, come per dirla con Woody Allen, il 90% del successo è essere presenti. Bravo a ricordarlo. L'altra cosa che è sicuramente legata anche alla bassa, a una area di difficoltà, è che al contrario di quello che avviene nel resto d'Europa, dove comunque l'immigrazione è aumentata come in Italia il divario tra immigrati e non immigrati è aumentato molto, cioè l'aumento delle competenze che si vede in Italia è quasi unicamente tra i ragazzi nati in Italia o dai genitori nati in Italia. Gli studenti di origine immigrata sono oggi in più grande difficoltà rispetto ai loro coetanei non immigrati in Italia. Ecco, oggi siamo al 7,5% di quindicenni in Italia che sono di origine immigrata. Non ci possiamo permettere di lasciarli ai margini di. Sì, la cosa è anche strana loro, perché in altri paesi invece sono proprio gli studenti immigrati che hanno i migliori risultati scolastici, per tutto un insieme di motivi sociologici e culturali, perché c'è il motivo del riscatto, perché le famiglie vedono nell'istruzione la vera inclusione sociale e la vera capacità anche di prendere l'ascensore sociale, perché sono meno viziati, tutto quello che volete. Invece lei dice che da noi un sistema che, a mio avviso, però è una mia idea personale, è sbagliatissimo sui figli degli immigrati, perché siamo uno dei pochi paesi che non riesce ancora a dargli una cittadinanza e un diritto di cittadinanza serio per ideologismi provinciali, medievali, chiamateli come volete, non me ne frega nulla delle critiche che arriveranno via SMS. Dico, in Italia invece questi studenti non sono quelli più, mi passi il termine, competitivi. Sì, non è ovviamente l'unica l'Italia in questa situazione, in gran parte la situazione degli studenti immigrati riflette il loro svantaggio sociale più generale, sono una popolazione più povera rispetto agli italiani, con minore capitale sociale, culturale, anche quando vengono, quando si trovano in Italia spesso. Però ecco, appunto, stiamo parlando di uno studente su 13 ormai. Se non integriamo con questi, non diamo a questi studenti le competenze per esercitare una cittadinanza che prima ancora che un documento è proprio appunto l'essere protagonisti nella società in cui vivono, è saper interagire pienamente nella società in cui vivono, non rendiamo un buon servizio a nessuno, perché l'integrazione degli immigrati nella società deriva poi tutta una serie di conseguenze per il benessere di tutto, per l'avanzamento dell'economia e il miglioramento, insomma, delle condizioni di vita dell'insieme degli italiani. Ecco, stiamo rischiando di lasciare ai margini questa popolazione non affrontando il problema in tempo e adeguatamente. Allora, resto sull'ultimo tema e poi faccio concludere anche Piera Cicci, perché lei citava il dato sul primato italiano. Allora, mentre nella classifica, poi vi do anche la classifica dopo il meteo, però noi abbiamo per esempio in scienze, così non parliamo sempre di matematica, ma in scienze il dato complessivo, la media in Italia è 494 punti, siamo sotto anche la media OCSE che è 501, la Cina è 580, però si va i 533 punti del Trentino ai 430 della Calabria. E qui, per favore, voi sapete che ho sempre difeso il nostro Mezzogiorno anche da atteggiamenti che sfioravano il razzismo, però una cosa va detta a Cesare quel che è di Cesare: qui non è un problema di risorse, perché la scuola pubblica ha sostanzialmente le stesse risorse in tutto il territorio, sostanzialmente, ho capito, però non si può dire che lo studente calabrese è così scarso in scienze perché vive in Calabria. C'è un problema di corpo docenti, a mio avviso anche di famiglie, e qui vorrei arrivare a chiudere, perché hanno ragione alcuni ascoltatori che dicono: certo, abbiamo risalito la china comprando la carta igienica, comprando i gessetti, comprando le merendine, cioè tutto il problema di quello che viene chiesto ai genitori di portare a scuola. Verissimo. Però come la mettiamo sul fatto che la predisposizione a marinare la scuola veda un record italiano, cioè il 35% dei quindicenni italiani ha saltato almeno una lezione e il 48% si è assentato almeno un giorno nelle due settimane prima del test PISA. Solo in Argentina, Giordania e Turchia abbiamo percentuali più alte. Chiedo a Piera Ceci e poi anche a lei, dottor Avisati, non c'è forse anche una responsabilità delle famiglie? Cioè, se mio figlio non va a scuola, l'insegnante me lo segnalerà. Ma cavolo, ma tu dove sei? Che punizione gli dai? Sei tu che gli firmi il libretto? O improvvisamente i quindicenni sono tutti maggiorenni, si autofirmano, andiamo in autocertificazione su questo. Piera Ceci, poi... È un problema sicuramente culturale, come stai sottolineando tu, perché chiaramente laddove ci sono delle famiglie alle spalle c'è un controllo maggiore e soprattutto una trasmissione di valori, cioè perché la scuola deve essere anche un valore che va insegnato. Devo dire, Sebastiano, che al sud c'è anche però un grossissimo problema di infrastrutture che forse al nord si sente un pochino meno e che può incidere anche su questo, perché sappiamo che ci sono insomma strutture molto più fatiscenti. Sì, sono a volte... guarda, personalmente sono più disponibile a capire questo quando parliamo di fare impresa al sud, che è molto più difficile che farla al centro nord, meno sul rendimento scolastico degli studenti, perché temo che ci sia anche un po' più di lassismo, ma ripeto, non faccio... Ci sono tanti presidi che al sud comunque davvero fanno un lavoro andandoli a pescare casa per casa, quindi bisogna dare atto anche a quelli che lavorano nella scuola e sono anche tanti insegnanti. Però certo, il primo insegnamento si dà in famiglia, questo è chiaro. Dottor Avisati? Sì, io forse concordo pienamente con questo che ha detto, che è un insieme dei fattori sociali al di là, che vanno anche al di là delle politiche scolastiche, che determinano le differenze di risultati. E in generale quello che vediamo è che nei paesi che vanno meglio c'è un'ambizione al successo educativo che pervade la società, cioè tutti ci si aspetta da tutti gli studenti che esprimano il pieno delle loro potenzialità. Ecco, se noi riuscissimo in Italia, da parte delle famiglie, dei presidi, degli insegnanti, ad avere l'ambizione che tutti i ragazzi riuscissero almeno a padroneggiare i problemi di base, appunto, ma a riuscire a raggiungere il loro potenziale, questo sicuramente permetterebbe un miglioramento. In questo certo le situazioni economiche incidono, quando alla fine della scuola c'è un lavoro ad aspettare, chiaramente sì, si investe anche con maggiore motivazione. È ovvio, però non può essere, a ragione anche questo. Però non può essere una giustificazione per dire, siccome il lavoro non c'è, a scuola puoi svaccare. Io lo dico in maniera molto chiara, ogni tanto lo uso come battuta. E mi dispiace. In realtà la dispersione scolastica con la crisi economica sta aumentando. Perché insomma si tenta di far lavorare questi ragazzi anche spesso in nero, evidentemente. Allora, mi fanno notare gli ascoltatori che a Schio, per esempio, gli studenti entrano con un badge che segnala assenze e altre cose. La tecnologia può servire, però poi se la famiglia non c'è dietro può avere anche un microchip nella cartella, ma cambia poco. E poi scrive giustamente un'ascoltatrice, secondo me giustamente: ma ci tenti lei come insegnante a dare insufficiente a uno studente, poi vede cosa succede. Allora io ogni tanto come battuta dico, e questa è una riflessione che dovremmo farci come genitori, una volta se prendevi un brutto voto rischiavi di essere menato da tuo padre, che non era un gran metodo educativo, non era certo la Montessori e nessuno vuole quei tempi. Però adesso leggere che quando il figlio prende un brutto voto si picchia l'insegnante che gliel'ha dato, stiamo impazzendo, cioè su questo. Attenzione, perché così non si va da nessuna parte, lo dico a tutti i genitori che sono in ascolto, così non ce la scarichiamo sempre sugli insegnanti. Grazie dottor Francesco Avisati, in collegamento con noi da Parigi, nella sede appunto dell'Ocse. Volete sapere la classifica? Shanghai al primo posto, poi Singapore, poi Hong Kong, poi Corea, poi Giappone, poi Liechtenstein, poi la Svizzera, poi l'Olanda, l'Estonia, la Finlandia, Canada, Polonia, Germania, Austria e anche poi a scendere Francia e Regno Unito. Noi siamo al 32esimo posto, siamo davanti alla Spagna, davanti alla Russia, davanti anche agli Stati Uniti e alla Svezia, che mi lascia sorpreso, ma evidentemente non è tutto oro quello che luccica in Svezia. Visto che facevamo una riflessione sugli investimenti e gli insegnanti e la difficoltà delle nostre regioni al sud, nel ringraziare Piera Ceci, beccatevi prima del meteo anche il racconto di come spende i soldi la regione Sicilia. Save me. Allora, tu dici, no? Dopo quello che abbiamo raccontato, investire nella formazione, fare i corsi per gli studenti che diciamo marinano la scuola. No, è molto più importante avere un dirigente del parco archeologico regionale di Pantelleria che dirige solo se stesso, in quanto è l'unico dipendente, si darà le autovalutazioni, si arrabbierà con se stesso, si firmerà i permessi e se li contesterà, bellissimo. E poi, insomma, la Regione Sicilia consta di 17.531 dipendenti. Siamo a 1,9 contro 1,19 sugli abitanti in Italia. Pensate che i dirigenti della Regione Sicilia sono 1.776, ossia quanti tutti i dirigenti di tutte le altre regioni italiane a statuto ordinario. E poi c'è il Parco Archeologico Siciliano di Morgantina, che ha sempre un dipendente, un dirigente che è l'unico dipendente. E poi la sezione operativa di assistenza tecnica dell'assessorato all'agricoltura di Buseto Palazzolo in provincia di Trapani, anche lì un dirigente che dirige solo se stesso. Poi il numero dei dipendenti regionali che è stanziato a Palermo, nel centro della Sicilia, è 7.647, sono il doppio di tutti gli impiegati di tutta la regione Lombardia. Sì. Ancora l'ispettorato del lavoro di Castelvetrano in provincia di Trapani ha 77 dipendenti, nella vicina Marsala, che ha il doppio della popolazione, sono 17 i dipendenti del medesimo ufficio. Misteri, eh? Ha il doppio della popolazione ma è un quarto dei dipendenti. E i musei, torniamo sui musei. Al Museo Pirandello di Agrigento ci sono 66 dipendenti, 40 dipendenti nel Museo della Ceramica di Caltagirone, 72 dipendenti nella Biblioteca Longo di Messina, 48 in quella del Museo Orsi di Siracusa, 55 in quello dei Piepoli di Trapani. Altro che taglio di auto blu, i dipendenti dell'autoparco regionale sono 127. Allora, la Corte dei Conti alla fine dice che sono 28.000 i dipendenti in tutti i vari, anche controllate dalla Regione Sicilia, perché ai 17.500 bisogna aggiungere 3.000 lavoratori esterni a tempo determinato e 7.000 dipendenti delle società partecipate. Allora, è colpa di Roma, è colpa della politica o è colpa di chi si vota certi amministratori regionali e di chi non controlla se i figli non vanno a scuola, magari gli firma anche la giustificazione perché non è preparato, invece di fargli beccare un bel 4 o 5 così imparano a studiare? Sempre colpa degli altri in sto paese. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso di borsa. Rapidissime alcune risposte. Lei oggi è molto sbilanciato pro insegnanti. No, guardi, abbiamo detto tantissime volte in questi anni che la scuola e i cattivi risultati dell'insegnamento scolastico sono dovuti anche, e diciamo una volta per tutte, a un atteggiamento sbagliato antistorico dei sindacati che hanno difeso per decenni i dipendenti anche della pubblica istruzione come se fossero tutti uguali, come se i fancazzisti non ci fossero, come se i lavativi non ci fossero, penalizzando i bravi insegnanti, quelli che per due lire, e aggiungiamo anche due lire, andiamo a vedere gli stipendi, no? Allora, per due lire fanno il loro lavoro egregiamente. Ho solo messo l'accento sul fatto che, siccome conosco questo paese ed è sempre colpa di qualcun altro, benaltrismo è l'atteggiamento per risolvere i problemi, forse un po' di autocritica sulle famiglie e sull'educazione e i messaggi che abbiamo dato ai nostri figli andrebbe fatta dalla generazione che adesso li ha ventenni e probabilmente ha fatto il 68 o 77, quindi veniva anche da un approccio, no, pedagogico di un certo tipo. Si può dire questo, bisogna dire che va tutto bene, madama la marchesa, sulla colpa degli insegnanti pagati poco e della politica. Qualcuno mi scrive: è la politica che deve dare il buon esempio. No, iniziamo dal basso a dare il buon esempio, poi vedrai che leggeremo anche dei politici diversi, forse. Poi c'è un ascoltatore che mi insulta ogni giorno, ma mi ascolta ogni giorno, forse tutti così, mette la firma e dice: ma lei, la studentessa con la Ferrari, l'ha vista, idiota, ignorante? No, non l'ho vista, abbiamo letto il rapporto della Guardia di Finanza sulle truffe e frodi allo Stato, e lì abbiamo scoperto. Lei l'avrà vista, non lo so, la vado a vedere visto che ha tanto tempo libero. Meno 1,95% la borsa, meno 2,65% Parigi, meno 1,90% Francoforte, meno 0,80% Londra e meno 0,70% l'America. Giornata abbastanza da dimenticare. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Dacci il quadro complessivo, poi ho il traffico, oggi sto facendo sballare tutti i blocchi e poi riavrò te. Allora, borsa, tutte le borse pesantemente negative, sul banche ma non solo. Sì, allora le borse, diciamo, hanno chiuso sui minimi di seduta, penalizzate anche dalla debolezza di Wall Street. Il Dow Jones al momento perde lo 0,76%. Per Milano è stata la seconda seduta consecutiva di ribasso pesante, nel senso che ieri aveva perso l'1,5%. Qui le preoccupazioni riguardano l'avvio in anticipo da parte della Banca Centrale Americana della tanto discussa riduzione degli stimoli all'economia. Questo perché ieri sono stati pubblicati dati macroeconomici positivi e l'attesa ora è tutta venerdì per le cifre sul mercato del lavoro americano. Qualora quindi anche quelle cifre dovessero essere positive, aumenteranno ancora di più le scommesse su una riduzione degli stimoli monetari da parte della Federal Reserve. Insomma, che la Federal Reserve, la banca centrale americana, inizierà a stringere i rubinetti, a stampare meno moneta. Attualmente ne stampa ancora 80 miliardi di dollari al mese. Di nuovo in diretta, allora, Livia Zancaner. Fiat oggi male dopo le immatricolazioni, Telecom e anche Ferragamo. Sì, allora Fiat è andata male, ha perso il 2,4% circa, è andata male anche l'azionista di riferimento Exor con un meno 1,8% e CNH Industrial con un meno 3,87%. Ieri i dati sulle immatricolazioni auto di novembre hanno mostrato un mercato in calo del 4,5% contro le vendite Fiat invece, che hanno registrato una flessione del 12,3%, stesso divario nei primi 11 mesi del 2013 con Fiat a meno 10,45%, mentre il mercato ha perso il 7,7%. Oggi però per il gruppo Fiat sono arrivate delle notizie positive, come al solito, dagli Stati Uniti, dove Chrysler, la controllata americana appunto del lingotto, ha registrato lo scorso mese immatricolazioni in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2012. Questo significare che l'Europa, in particolare l'Italia, il mercato che deve essere più temuto, se possiamo dire così, dal gruppo Fiat. Ancora tra i titoli, ERG dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza e dicevamo del lusso invece oggi. Allora, ripeto, Ferragamo è molto cresciuta nell'ultimo mese, per cui meno 3,15%, invece va bene Tod's, anzi andava bene, poi ha chiuso meno 0,60% con prospettive interessanti secondo gli analisti. Autogrill più 0,16%, Ansaldo più 0,20%, Terna più 0,50%. Su titoli più sottili vorrei concentrarmi appunto su ERG da un lato e su Falck dall'altro. Allora, ERG ha perso, come dicevi tu, il 6,7%. La notizia di oggi è che la Guardia di Finanza ha effettuato una serie di perquisizioni presso le sedi di Roma, Milano e Genova della controllata di Ergo, ovvero Total ERG. Il reato contestato dalla Procura è quello di frode fiscale per oltre 900 milioni di euro, le persone indagate sarebbero 5. Per quanto riguarda Falck, le quotazioni oggi hanno beneficiato dell'operazione di riassetto delle attività nel Regno Unito, il titolo ha guadagnato il 3,35%, nel dettaglio l'accordo prevede che la società ceda il 49% delle società appunto a cui fanno capo gli impianti eolici nel Regno Unito per un corrispettivo stimato in circa 185,2 milioni di euro che verranno pagati cash. E allora stiamo sui migliori e peggiori. Valore Italia Holding meno 11%, Zucchi meno 9,70%, Seat Pagine Gialle meno 8,70%, appunto ERG. I migliori: CHL più 15,90%, Basic Net più 11,80%, Olidata più 6,70% e poi la Falck che tu ricordavi. Grazie Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie a voi. Alcune risposte, no, non abbiamo mai detto che la Regione Sicilia abbia 1700 dipendenti, ha 1700 dirigenti. Poi chi dice io non ho mai picchiato l'insegnante o insultato l'insegnante, mio figlio è stato bocciato, prende 3-4 eppure io punisco lui, bravo. Diciamo solo che c'è stato un cambio di atteggiamento nei confronti degli insegnanti e del figlio insufficiente. Sembra sempre che sia colpa della scuola, dell'insegnante, in molti casi, mai che una famiglia si faccia un'analisi di coscienza oppure ammetta di avere anche un figlio così, insomma, che forse non sta studiando abbastanza, forse non è un genio, è sempre colpa del sistema, del destino cinico e baro. E poi mi fanno impazzire alcuni ascoltatori che mi riempiono di insulti, ma ascoltano dall'inizio dell'ora, perché dice eccolo qua, demagogia e poi 2 minuti di borsa. No, la borsa era più lunga. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti ancora i messaggi sul ruolo delle famiglie nell'educazione dei figli, visto che abbiamo aperto e dato ampio spazio al rapporto OCSE-PISA sulla qualità dell'istruzione dei nostri studenti confrontata con quella di tutti i paesi dell'OCSE. Non posso rispondere a tutti i messaggi, torneremo a parlare delle famiglie, però in questo caso con il nuovo ISE, cioè nuovi criteri per avere agevolazioni di carattere fiscale, sperando appunto che non le usino i furbi. Ho permesso però un Letta così arrabbiato come non l'avevamo mai ascoltato. Che cosa è successo? Allora, oggi il quotidiano della Repubblica ha un'intervista rilasciata dal commissario europeo per gli affari economico-monetari e vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, che dice: l'Italia non sta rispettando l'obiettivo sulla riduzione del debito. Lo sforzo di aggiustamento strutturale deve essere più alto di quello che avete fatto. Italia e Francia sono i due paesi che stanno crescendo di meno perché rispetto a tutto il resto dell'Unione, che hanno fatto meno riforme. Apriti cielo, io faccio notare solo, anzi, Rehn dice: Italia e Francia sono chiaramente indietro sulla competitività. Vabbè, faccio notare a Olli Rehn, che è in campagna elettorale anche lui fra poco, perché deve essere, si candida, no? Per l'Europarlamento in Finlandia, se lei va a guardare i dati sul nostro export, non può parlare di scarsa competitività delle imprese italiane, forse di quelle francesi sì, ma vada a vedersi cosa hanno fatto le nostre imprese nonostante tutto quello che lo Stato, la burocrazia, le infrastrutture non gli danno, e la tassazione non ultima in questi 2 anni. Detto ciò, non so perché la Finlandia è un po' distante delle volte. Detto ciò, il presidente Napolitano ha risposto, poi lo facciamo ascoltare, ma la risposta più dura è arrivata da Enrico Letta. Voglio mettere in guardia rispetto al rischio che l'Europa non è scontata. L'Europa non è scontata, l'Europa non è data per sempre. Con l'Europa, secondo me, è profondamente a rischio, perché il 2014 sarà l'anno in cui o riusciremo, a partire dal vertice del 19-20 dicembre, a far fare il passo in avanti, oppure l'avvitamento è evidente. E trovo nell'intervista di oggi del commissario Rehn proprio le caratteristiche di questo momento di profonda di questo cleavage nel quale l'Europa si trova oggi. Il commissario europeo non può permettersi di esprimere un concetto come quello di scetticismo. Il commissario europeo deve parlare di stabilità, di equilibrio finanziario, ma lo scetticismo appartiene a un'altra categoria, una categoria di dibattito politico che il commissario europeo, in quanto candidato alle elezioni europee, può usare, ma deve togliersi la giacca da commissario per gli affari economici e monetari, altrimenti lo stesso commissario Rehn si troverà nel prossimo Parlamento europeo nel quale si candida, non un Parlamento europeo carico di ideali europeisti, ma un Parlamento europeo carico di populismi euroscettici. E questa volta, come dicono a Roma, non gliela mandate a dire Letta Rehn. Lei non può permettersi di esprimere scetticismo. Se vuole parlare come candidato politico, parli come politico, ma non come commissario europeo e vicepresidente della Commissione europea. Io devo dire che stavolta Letta ha arci ragione. Ma insomma, va bene la bocciatura sulla legge finanziaria italiana, adesso abbiamo chiarito le privatizzazioni, quali saranno, la spending review, però voglio dire, Oliren, ma mai una volta che l'abbiamo sentita così duro sulla posizione tedesca, che tanto bene ha fatto all'andamento economico dell'area euro, che infatti è l'unica area in cui l'economia non si riprende, neanche quella tedesca. Allora, cosa facciamo? Il forte con i deboli, il debole con i forti? Vabbè, forse sono troppo duro io. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, proprio sui temi europei, buonasera. Buonasera. Ma a me sembra che Letta questa volta si sia veramente seccato. Noto che Saccomanni, ho capito che negli Stati Uniti, però forse devo usare anche il tablet ogni tanto, il ministro dell'economia, perché dà una risposta che invece sembra spiazzare quella di Letta. Poco fa ha detto, ma da Olli Rehn cose già note. Beh, insomma, mettiamoci d'accordo, o ha fatto arrabbiare o sono cose già note. Il Presidente della Repubblica, anche in virtù del suo ruolo, era stato più cauto, più formale, però scusiamo questi 20 secondi anche... Giorgio Napolitano ha detto attenzione, serve una correzione nella rotta dell'Unione Europea. Si tratta di operare insieme, di comune accordo, con comuni intenti all'interno delle istituzioni europee, perché effettivamente a livello delle istituzioni europee si impone una correzione di rotta, nel senso di un impegno nuovo per promuovere la crescita dell'economia e dell'occupazione. E poi ripeto, c'è anche il ministro Saccomanni, io non so se... L'agenzia ANSA recita questo, è uscita pochi minuti fa. Saccomanni da New York dice: sono colpito dal fatto che una non notizia sia diventata un tema di discussione. L'intervista era concordata da tempo con i giornali europei. Gli uffici di Renzi hanno contattato per chiarire, ma non ho capito, sta accusando Letta di aver creato una discussione, un polverone sulla non notizia? Io capisco così in italiano, ma Adriana Ceretelli, aiutami tu. Prego Adriana. Ma io temo per una volta di non essere d'accordo con te. Va bene così. Neanche con Letta, ma con il ministro Saccomanni. Ti confesso di essere all'origine di questo polverone, perché tutto è nato dal fatto che oggi c'era un incontro per la presentazione dello Euro Plus Monitor, che è un rapporto annuale che viene presentato e che mette a confronto, diciamo, i progressi strutturali sulla salute dei paesi e sugli aggiustamenti dei conti che viene fatto una volta all'anno, ogni tre anni. In questo rapporto si dice che la Francia sarebbe il grande malato d'Europa e l'Italia invece avrebbe fatto negli ultimi due anni dei progressi, anche se insufficienti, e che quindi oggi il quadro dell'Eurozona è un quadro che va visto in modo più ottimistico, in quanto i paesi sotto programma, i soliti Grecia, Spagna e bla bla bla, sono sulla via del risanamento e quelli indietro sono Francia e Italia. Ma non c'è niente di strano in tutto questo, sono dei dati di fatto. Che Italia e Francia siano, diciamo, in ritardo sul recupero di competitività non è una notizia, è un problema strutturale che ancora non abbiamo affrontato nel debito modo. In questo rapporto non REN si dice che per esempio il mercato del lavoro italiano e francese, i due mercati sono i più rigidi del mondo, capito? Non dell'Europa. Ma non sono dati nuovi, capisco che possano spiacere, come spiace, non so, un giudizio delle agenzie di rating quando ci downgrade, ci abbassa il voto, le valutazioni positive, ma lo sappiamo anche noi che le riforme sono in essere, ma che vanno ancora completate e che ci sono altri paesi che le hanno fatte più di noi ed è vero che sono cresciuti più di noi, mentre noi abbiamo fatto un ottimo aggiustamento dei conti pubblici, anche se abbiamo sempre il peso massimo del debito e dunque i rischi connessi a questa enorme massa che ci tiriamo dietro. Sì, no, allora, Fammi capire una cosa, però, dalla tua ricostruzione sembra che essere in campagna. In quello che è stato detto oggi, nulla davvero. Allora, dalla tua ricostruzione sembra che essere in campagna elettorale non sia più Olly Rehn, ma Enrico Letta. A questo punto, se mi passi la battuta. No, io non dico che però, nessuno è in campagna elettorale, per amor di Dio, però. Ti dico, c'ero e sono all'origine della domanda. Ecco, che spiegami, c'è la fame. Posso dire che era una domanda semplicemente giustificata dal fatto che questo aveva detto la Francia è il grande malato d'Europa. Allora io gli ho chiesto, ma qual è la valutazione dell'Italia in tutto ciò? E lui ha detto, entrambi i paesi hanno ritardi di competitività. E quando io gli ho chiesto di dire quale dei due fosse più in ritardo, lui si è limitato a dire quello che ha detto, cioè sono entrambi rispetto ai paesi sotto programma, sono più indietro. Ma è vero? Allora, a parte il fatto che uno potrebbe anche dire se non gli avessi fatto quella domanda evitavamo lo scontro, però avremmo avuto un tema in meno. No, sto scherzando. Dopo il traffico vorrei capire invece se al di là appunto del fatto che tu dici ma guarda che Olly Rehn ha detto cose che già aveva detto nel passato, che erano già presenti nel rapporto, che non c'è nessuna novità, che rispondeva a una domanda specifica, che non era un attacco diretto all'Italia, e che quindi forse ha ragione il ministro Saccomanni e se l'è presa un po' troppo Letta, però io vorrei capire se forse nell'uscita del Premier non ci sia anche un cambio di passo nei confronti dell'Europa, parlare a nuora perché suocera intenda, una cosa del genere. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni e Adriana Ceretelli. Può essere un cambio di strategia verso l'Europa, visto che si avvicinano le elezioni europee e quindi Letta parla a Rehn, ma perché intendono anche gli altri partner europei? Ma secondo me sicuramente c'è una componente elettorale, ma c'è anche la componente dell'imminente vertice del 19 e 20 dicembre qui a Bruxelles, nel senso che naturalmente abbiamo visto tutti che il programma della grande coalizione tedesca non è un programma che prevede in alcun modo un rilancio della crescita in Europa, ma piuttosto rigore, rigore, ancora rigore, unione bancaria senza naturalmente nessuna mutualizzazione dei rischi per le banche o per i debiti eccetera eccetera, cioè la solita Europa. Allora io mi immagino che Letta anche la solita Germania, questo, se posso dire. Per dire a Merkel più che al povero Rehn. Povero Rehn. Adesso povero solo... Rehn non si può sentire, Adriana, io con tutto bene che ti voglio, però ho capito cosa dici tu, a parte gli scherzi, che il messaggio sia più rivolto a Angela Merkel. Faccio notare che quando commentavamo una cosa con il direttore del Die Zeit, che è un italiano di origine italiana, Di Lorenzo, disse no, la Merkel probabilmente cambierà e sarà più morbida, non vuole più essere lo sparacchio dell'Europa, però insomma, aspettiamo i fatti, come si dice in questi casi. Ma certamente cercherà di presentare meglio le cose, però se tu guardi quello che c'è scritto nel programma della grande coalizione, purtroppo non contiene quelle aperture che ci si aspettavano da parte della SPD, dei socialisti. Hai capito? Cioè si sperava in molto meno rigore, in più slancio alla crescita, stimolo, invece resta sempre sostanzialmente la solita politica, anche se secondo me ci sarà certamente meno rigore, primo perché il rigore ha funzionato nei paesi dove è stato applicato e quindi non c'è ragione di continuare, secondo perché ci si è accorti che l'eccesso di rigore ammazza il malato e la Grecia è lì a dimostrarlo. Dal rigore al rigor mortis, come diciamo ogni tanto. Grazie, fermati lì per favore. Grazie Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento con noi da Bruxelles. Ultimo tema che ci riallaccia al tema di apertura, visto che parlavamo del rapporto di come gli studenti italiani abbiano risalito la classifica, ancora bassa nel rapporto OCSE-PISA, sulle capacità, soprattutto al centro-nord, ahimè, è molto alta la differenza con il sud. Un tema che citavamo era anche la possibilità, la serietà di un paese, non solo nella sua classe politica o manageriale, ma anche nei suoi cittadini, quando scopriamo i casi che raccontava la Guardia di Finanza la settimana scorsa. La studentessa in Ferrari è quello più, se volete, iconografico, quello che colpisce di più, però che godeva dei benefici di riduzione delle tasse e delle agevolazioni pur girando in Ferrari, perché il papà la dichiarazione dei redditi l'ha fatta in un certo modo, come fanno grandi evasori in questo paese. Oggi il governo ha licenziato, nel senso che ha dato via libera al nuovo ISE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente, ossia serve a valutare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni, quelle sociali ma anche sociosanitarie, non c'è solo la scuola, c'è anche la sanità. ok, dalla mensa scolastica alle tasse universitarie. È una delle cose più, posso dirlo, schifose, perché vedere che ci scrivono ascoltatori che arrivano in due, marito e moglie, a 50.000 euro lordi, 60.000 euro lordi l'anno, e non hanno diritto nei loro figli alle agevolazioni scolastiche o anche sanitarie, mentre hanno esempi, c'è scritto anche un'infermiera che ha i medici, i liberi professionisti accanto, che invece i cui figli godono delle agevolazioni, è veramente uno schifo, si può usare questa parola, e questa volta non c'entrano i politici. Vediamo se il nuovo ISE avrà le caratteristiche più stringenti per cui non permettere o ridurre al minimo certi abusi, che chiamare cattivo costume è quasi un eufemismo. Messaggi che dicono: ah, ma adesso difendete l'Italia. No, non difendiamo l'Italia, l'Italia deve continuare a fare i compiti a casa, deve però esserci anche un'altra Europa, ma non lo diciamo. Ma quali altre evidenze devono arrivare a livello macroeconomico per capire che la strada tedesca ha fatto bene solo alla Germania, ha fatto male al resto d'Europa? Non lo so. Senza populismi, da usciamo dall'euro o dare la colpa alla Germania di tutto, perché già sento loro di campagna elettorale in questo paese. I nostri mali li curiamo noi, e i politici si assumono la responsabilità delle riforme non fatte in questi 20 anni di governo. Dopodiché si può chiedere all'Europa di essere un po' più lungimirante, di fare quello che fanno anche altri paesi. Sono due cose diverse, non giochiamo sempre a far casino e a, capito, accusare l'Europa per i mali nostri e viceversa. Gianni Trovati, ormai ospite fisso di questo programma. Buonasera. Mi dici se questo ISE eviterà o ridurrà certe schifezze di cui i genitori, prima ancora che i figli, dovrebbero vergognarsi? Sì, dovrebbe farcela, anzi ce la farà a ridurle, e dovrebbe farcela a, non dico azzerarle, ma a portarle a un livello invece fisiologico, per due ragioni. Allora, come funzionava il vecchio indicatore? Si autodichiarava tutto, e poi c'erano controlli a campione ogni tanto, quando appunto c'erano le risorse per farlo, eccetera, per cui viene fuori, per esempio, il dato classico: secondo le autodichiarazioni dell'ISEE, l'80% degli italiani non ha un conto corrente in banca, mentre secondo i dati della Banca d'Italia, un po' più verosimili, il 91% degli italiani ha un conto corrente in banca. Perché non dovrebbe più succedere questa cosa qui con il nuovo ISEE? Per due ragioni. La prima, i dati autodichiarabili vengono molto ridotti perché viene incrociato il sistema con i dati che l'amministrazione pubblica ha già. L'INPS prima di tutto, quindi i dati sui redditi, sui contributi, sui redditi da pensione, sui trattamenti assistenziali e così via ci sono già. Il fatto che vengano incrociati tutti questi dati è che sostanzialmente in prospettiva sia sempre più automatica la dichiarazione, cioè l'inserimento di dati che la pubblica amministrazione ha già, limita drasticamente i dati autodichiarabili ad altri settori, per esempio gli investimenti finanziari e cose di questo tipo. Quando poi, passo successivo, anche l'anagrafe dei rapporti finanziari, cioè in italiano l'anagrafe dei conti correnti, sarà operativa pienamente e incrociata con questi dati, a quel punto non si scappa più. Questa è quindi la struttura normativa, permette di farlo. Serve anche la struttura burocratica per incrociare questi dati e per far avviare davvero la macchina a regime. Servono un po' di convenzioni, un po' di accordi tra i vari rami della pubblica amministrazione. A questo punto non ci sono più scuse, il decreto li prevede, e quindi anche i vari rami della pubblica amministrazione devono darsi una mossa e firmare queste convenzioni, perché diciamo, questo è un portato della evasione fiscale italiana. italiana che appunto è a livelli molto alti, ma è un portato ancora peggiore perché va a impattare sull'accesso a servizi di assistenza e di indennità eccetera, che sono rivolti alle fasce più povere. Quindi per ogni finto povero che si ciuccia una indennità, un'assistenza, c'è un povero vero che non può farlo. Eh sì, non c'è solo un danno, diciamo, allo Stato, c'è un danno anche al tuo concittadino, quindi è inutile che facciate i furbi, alcuni scrivono. No, fate un danno allo Stato sicuramente, ma anche alla persona che ne aveva diritto. Vedo che alcuni criticano, speriamo che sia la volta buona invece, però una riflessione, un paese che è sempre pronto a criticare gli altri sul fatto che l'80% degli italiani nelle autocertificazioni per l'ISEE dichiarano di non avere conto corrente, beh, insomma, forse ogni tanto qualcuno ha la classe politica che si merita, possiamo provare a dirlo questo. Allora cambiamo noi, così riprendiamo il cerchio da cui abbiamo iniziato oggi, e forse avremo anche un'altra classe politica. Nel ringraziare Gianni Trovati, devo dire che c'è un ascoltatore che dice che non leggo mai i messaggi di critica verso il programma, verso di me. Vabbè, mettetevi d'accordo, a me sembra di leggere anche troppi. Caro dottor Marco Ferri, visto che si firma, io vi do appuntamento domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Intanto, da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.